fossi io, viene lento divagar una musica brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 2.0 di Gianluca Nicoletti. Rispetto alle forme consuete di esorcismo nei confronti di ciò che ci atterrisce più che ogni altra cosa, che è l'immagine della morte, devo dire che le cronache quotidiane ci aiutano molto a esorcizzare quello che è un oggetto spettrale in cui si concretizzano tutte le nostre paure e le nostre ansie. Oggi sfoglio a caso un paio di quotidiani e noto che, come sottotraccia di episodi di cronaca noti, stranoti, riverberati per lungo tempo da tutti gli organi di stampa, quindi dai giornali, poi dalla radio, poi dalla televisione, poi dagli approfondimenti, il senso di osservazione della spoglia umana è un elemento fondamentale. Caso Meredith, omicidio di Perugia, l'arringa dell'avvocato Bongiorno, è tutto un tessere delle circostanze attorno a dei particolari che si possono esemplificare in tracce di DNA sul reggiseno della morta, tracce ematiche, tamponi vaginali e via dicendo. Altra pagina che apro, ma proprio casualmente, caso Cucchi, il ragazzo di 31 anni che era stato arrestato il 15 ottobre, che era morto una settimana dopo nel reparto per detenuti dell'ospedale Sandro Pertini, una vicenda singolare. La famiglia di questo ragazzo, ritenendo che fosse stato ucciso per percosse, per maltrattamenti, ha fatto una cosa che non ha precedenti nella storia del giornalismo, ha reso note pubbliche e dato modo di osservarle sui giornali, sui siti internet, ovunque, le foto del cadavere del proprio congiunto dopo l'autopsia, mostrandone le lesioni, i lividi, le scoriazioni. E oggi, visto che la vicenda seguita sui giornali, perché sono stati reintegrati tre medici che hanno stati indagati per omicidio colposo, si rientra nuovamente nell'analizzare il volto tumefatto, le vertebre fratturate. Insomma, noi siamo quasi abituati dalla frequentazione di un genere televisivo che è molto interessato ai particolari correnti ma necessari nella composizione delle fasi, delle responsabilità di un delitto, ad essere quasi degli esperti di questa materia. Ricordate l'analisi del sabot, l'analisi della villetta di Cogne, l'analisi del martello, del mattarello, degli oggetti, dei delitti, delle case, delle casette, di tutte le fattispecie del delitto. E poi quella meravigliosa fiction che ci sembra che sia tutto facile trovare da un microgrammo di capello l'identità di una persona scomparsa, di un omicida o di una fase importante di un delitto. Sgozzata e con le mani mozzate, su tutto il corpo ferito da coltello e di un oggetto appuntito, forse un cacciavite. Carla Molinari, di 82 anni, è morta così, aggredita brutalmente nella sua casa di Coppio Trevisago, in provincia di Varese, giovedì sera. È il primo caso in Italia di un delitto dove sono state mozzate entrambe le mani e poi portate via. Le mani almeno le sono state ritrovate oppure no? Al momento non sono state ritrovate, non mi risulta. Quindi... Ma entrambe, tutte e due le mani? Entrambe le mani. L'allarme è stato dato da una vicina di casa che giovedì sera ha visto verso le 21 le tapparelle della casa di Carla ancora alzate. La donna le abbassava molto prima perché aveva paura, lo aveva detto. Mentre tutte le forme tradizionali consuete di elaborazione del lutto, del senso della morte, si sono un po' perdute, un po' per le organizzazioni familiari che sono cambiate, l'organizzazione dei clan, delle organizzazioni dei sistemi di vita e via dicendo, un po' perché abbiamo perso la capacità di avere un contatto diretto con la morte naturale. Una volta le persone morivano in casa, una volta tutti assistevano alle fasi di preparazione, di esumazione, di elaborazione del lutto di un morto. Oggi sembra tutto anesteticamente superato attraverso una sorta di eliminazione immediata di ogni traccia della persona scomparsa, perché la morte non deve esistere nella nostra civilizzazione, persona che è fatta di splendore, di necessità di consumo, di vitalismo, di persone eternamente giovani e ben conservate. D'altra parte esiste questa sorta di talento e di professionalità che abbiamo acquisito per via indiretta, osservando la rappresentazione che fanno i mezzi di comunicazione, appunto, degli aspetti più terrificanti. Dove inizia l'orrore per noi? Inizia laddove, superato l'aspetto esteriore dell'epidermide, il corpo umano diventa qualcosa di misterioso, qualcosa che ci spaventa, ci atterrisce. Se noi potessimo un attimo guardarci come siamo dentro, si spalancherebbe per noi un abisso terrificante. Però invece, quando questi diventano elementi costitutivi di una fiction, ci sembrano elementi affascinanti. Ha un angioma cutaneo, una voglia a macchia di vino sul torace. Era questo che Kemi cercava di dirmi. Possiamo ricavare il DNA dai suoi vestiti, ma non abbiamo niente con cui confrontarlo. Le sue impronte sono piene di callosità, lasciano solo sbavature come quelle sul coltello rotto. Credo che abbia cercato di uccidersi. Sara, rilassati. Frost non può muoversi da lì. Voglio inchiodare quel bastardo e non voglio che pensi neanche per un istante che la farà franca. D'accordo, un passo alla volta. Frost puzzava d'alcol quando è arrivato al pronto soccorso. Il suo tasso alcolemico era di 0.34. Solo un alcolizzato può restare funzionale a quei livelli. E sai che penso? Che si sia scolato il vino sulla scena direttamente dalla bottiglia. Quindi dovrebbe esserci il suo DNA. Questa mattina vorrei fare un punto di esattezza, se possibile, dove iniziano i limiti del mondo della fantasia smisurata, e probabilmente ci aiuta a supplire alla mancanza di strumenti di elaborazione del senso della morte, del senso dell'orrore, del senso di accettazione della mutazione di questa carcassa umana a cui diamo un grande valore, e allo stesso tempo di dare, se possibile, un'informazione di quello che realmente accade in questi luoghi, in cui da un capello, da una traccia ematica, da una traccia organica si risale comunque al mistero legato a una persona, quando molte volte questa persona è soltanto un mucchietto d'ossa o dei resti carbonizzati. Per fare questo mi avvalgo di una persona molto particolare, conosciuto poco tempo fa, con la quale ormai ho un rapporto di confidenza, quindi ci daremo del tu, non simulando freddezze che in realtà non esistono. Cristina Cattaneo, buongiorno. Buongiorno. Cristina Cattaneo è un'antropologa forense, un medico legale, è una persona che tutti i giorni ho visto lavorare nell'Istituto di Medicina Legale di Milano, quindi è una persona a cui arrivano dentro delle scatole degli scheletri, o arrivano dei cadaveri, o arrivano dei resti umani, e da questi resti umani Cristina Cattaneo deve capire innanzitutto chi li ha resi tali, per quale ragione sono resi tali, e molte volte è capire a chi appartengono, quindi risalire la storia di un essere umano da le sue ossa. Cristina Cattaneo però ha anche una seconda particolarità: oltre a svolgere questo lavoro di tipo scientifico, è anche una romanziera. Lei il giorno si occupa di scheletri, di cadaveri, di resti umani, ricostruisce le proprie storie, e la sera racconta le proprie storie. Infatti è autrice di due romanzi, libri di racconti, che in realtà affondano le radici nel suo lavoro quotidiano, che sono Morti senza nome, Storie di corpi e resti umani da identificare, e Mondadori 2005, e Turno di notte, Indagini, sfide e paura di una patologia di una patologa forense, Mondadori. Allora, Cristina Cattaneo, rispetto alle rappresentazioni della fiction, abbiamo sentito CSI, ma ce ne sono tantissime, di questi meravigliosi dottori che con un colpo d'occhio, con un vetrino, riescono a capire tutto di un cadavere, di un delitto, di un mignolo di essere umano abbandonato sul loro tavolo anatomico. Ecco, la tua realtà invece da dove inizia? Ma la realtà mia è estremamente diversa, proprio perché non sono una romanziera, ma ho scritto soltanto dei racconti che parlano di casi ormai chiusi, di casi abbastanza anonimi tutto sommato, trattati da me nel nostro laboratorio, proprio per un pochettino aggiustare il tiro su quello che potrebbe sembrare il nostro lavoro e le potenzialità del nostro lavoro attraverso la fiction, e devo dire anche attraverso la cronaca, perché tu hai aperto un vaso di Pandora all'inizio, hai detto un sacco di cose interessanti su cui ci sarebbe da discutere tantissimo, perché c'è il grosso problema della fiction e c'è il grosso problema anche della cronaca, di come veniamo rappresentati e come viene rappresentato il nostro lavoro dalla cronaca, insomma, la televisione. Perché abbiamo l'impressione, Cristina, di essere tutti diventati esperti? Ho sentito disquisizioni sulla traccia ematica, sulla traccia organica sul reggiseno, sull'impronta della scarpa. Sembra che sia così facile identificare, e ci sia una certezza così assoluta rispetto a questi dati. Allora, questo è un bene o un male, cioè il fatto che tutti vengano resi partecipi secondo me è una grande cosa, nel senso alla scienza, per la scienza, e come medico parlo soprattutto, è fondamentale che la gente che non mastica il nostro gergo comune abbia veramente l'idea di che cos'è una malattia, che cos'è una causa di morte e che cosa sia il nostro mondo tecnico. Non sono d'accordo però quando si porta questo atteggiamento al limite. I dettagli di un processo tecnico, i dettagli tecnici, l'interpretazione di una macchia di sangue, di un risultato del DNA, di un risultato di un'autopsia, sono talmente delicati che bisogna avere un bagaglio culturale e anche il tempo e l'esperienza per poterli discutere idoneamente. E noi questo facciamo già fatica a farlo di fronte a un giudice, di fronte a dei magistrati che non parlano il nostro linguaggio, a spiegare tutto l'errore che c'è dietro, a spiegare quali sono le diverse sfaccettature di un risultato. Figuriamoci come può essere alterata questa realtà, questi risultati, quando fanno parte di un talk show. Quindi quando io do un valore di certezza, quando vedo in televisione la rappresentazione del pedale, la bicicletta di Garlasco con la traccia ematica di sangue mestruale, sangue di una ferita, guarda, vedi, ho memorizzato tutte cose che ho sentito dire in televisione dai miei colleghi, quindi mi sembra che abbiano che siano concetti legati a delle realtà certe. Invece tu, mi sembra aver capito, che dici che sono dati con un grande margine di approssimazione comunque. Sì, questa è una lotta che io e tanti altri miei colleghi stiamo facendo proprio adesso. Il dato scientifico è un dato sacrosanto, è un dato che deve indirizzare le indagini, dare delle quasi certezze, ma diciamo che è un dato, come tutti i dati biologici, che ha un errore, e troppo spesso si dimentica questa cosa, lo dimentica la gente che guarda queste trasmissioni, ma lo dimenticano anche i giudici, che ormai appunto a seguito di questo effetto CSI forse aspettano una precisione e accuratezza che non è propria di nessuna disciplina biologica. Allora 800 24 00 24 è il nostro numero. Avete domande da porre alla dottoressa Cattaneo, che è la persona che concretamente è al centro di tutte queste indagini, che poi rappresentano il fantasmagorico mondo dei nostri frisson di fronte alla televisione, delle nostre competenze imparatrici, delle fiction che non a caso Fox Crime è uno dei canali più visti della TV satellitare, delle fiction che appassionano le nostre nottate. A noi piace vedere ricostruire l'esistenza di un essere umano di cui si trova solamente uno scheletro, ma io ho visto nel laboratorio di Cristina Cattaneo come in realtà lavorano gli antropologi forensi, i medici legali. Io pensavo di vedere, come vedo negli studi di CSI, soltanto sofisticatissime apparecchiature elettroniche che ricostruiscono con il computer in 3 secondi il volto di una persona semplicemente da uno scheggia di cranio. In realtà ho visto un mucchio di pale, zappe e picconi. Come mai? Come inizia il tuo lavoro, Cristina? Allora, il mucchio di pale, zappe e picconi fa riferimento a un'altra attività che non è quella della ricostruzione facciale, ma che è quella della ricerca di cadaveri occultati. Infatti questo è proprio un ambito che dà l'idea di come si può mescolare bene nel nostro mondo, di quanto sia eclettico, non soltanto discipline diverse, ma anche mezzi che vanno dall'artigianale alla più sofisticata tecnologia. Per esempio, quando un pentito o un testimone dice che sa che in quel bosco c'è sepolto tizio che è stato sparato 10 anni prima, uno si immagina che subito si parte con la fotografia aerea, che si parte con i metal detector, elettromagnetometri, macchinari dai nomi molto complessi, che sono sì estremamente molto utili e che in effetti utilizziamo, però diciamo che a volte per risolvere il problema è fondamentale anche avvalersi di pale, picconi, cazzuole, pennellini, come fanno gli archeologi, tant'è vero che esiste la disciplina proprio dell'archeologia forense, per poi dare la risposta finale, perché il georadar, che è super tecnologico, mi può dare qualche indicazione se lì sotto c'è una fossa, però per poi trovare e dare la certezza che ci sia o no, devo prendere un archeologo, scavare come si fa sulle necropoli antiche con questi mezzi molto artigianali e vedere se effettivamente lì è vero che usate i cani, che è uno degli alleati più importanti. Certo. Certo, usiamo anche i cani da cadavere, come ci sono i cani della finanza, da droga e da tartufi, ci sono anche i cani che sono allevati. E come sono addestrati? Sono addestrati, dipende dal paese. Qui in Italia noi li addestriamo insieme a ex volontari della Protezione Civile che sono degli ottimi conduttori, li addestriamo con il sangue marcio, sangue umano marcio. Si può utilizzare anche sangue di maiale, tessuti molli di maiale, perché hanno le stesse caratteristiche, molto simili comunque all'umano. E quindi questi cani, che non sono delle macchine ma sono degli animali, possono essere molto utili, soprattutto se non è passato molto tempo dalla morte. 800 24 00 24, avete domande, avete qualche dubbio, volete chiarirvi qualcosa di quello che avete visto, sentito dire, immaginato rispetto ai tanti casi di cronaca che seguite in televisione? Del cadavere rimane soltanto il busto parzialmente bruciato. Gli arti, così come parte della testa, sono stati divorati dai cani. A bordo dell'auto c'era un uomo completamente carbonizzato che non è ancora stato identificato. Il corpo di un uomo quasi completamente carbonizzato è stato trovato questa mattina nel Napoletano, vicino a Santa Anastasia. Il cadavere di un uomo è stato trovato all'interno di un'auto in fiamme nella zona industriale di Mazzocchio, tra Fossanova e Priverno, in una stradina isolata. Alfredo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io volevo porre il problema della difesa dell'imputato, dell'indagato, in questi processi altamente specializzati. Perché la verità è tale quando c'è parità fra accusa e difesa, e io, difesa, ho la possibilità di contestare con gli stessi mezzi l'accusa. Allora il pubblico ministero mette sul piatto della bilancia tutto un apparato statale, costosissimo. Se l'imputato o l'indagato non ha i mezzi sufficienti per poter avere dalla sua un perito altrettanto bravo, un apparato altrettanto funzionale, altrettanto costoso, come fa a difendersi? Lei naturalmente allude sempre alle fattispecie di cui stiamo parlando questa mattina, quindi analisi di scene del delitto, analisi di tracce ematiche. Certamente, certamente. Noi abbiamo visto, per la questione, non so, di Carlasco, periti che hanno sconvolto tutto quello che era stato detto prima. L'imputato come fa a difendere? Sentiamo Cristina Cattano, senza entrare nella questione giuridica che non è sua competenza, ma rispetto alla perizia, rispetto alla forza di alcune perizie, è vero quello che dice il nostro ascoltatore, Cristina? Sì. Molte volte ci sono due verità che sembrano contrastanti in maniera abnorme, com'è possibile? Questo è vero. Lui ha sottolineato due aspetti fondamentali che sono diversi. Il primo è quello dei mezzi. Quello dei mezzi è chiaro che risulta essere un problema. I costi, i periti, i consulenti della difesa o di parte civile, che non siano i consulenti del magistrato, chiaramente ovviamente sono pagati separatamente, non sono pagati dallo Stato. Quindi hanno un costo, logicamente, certo. E quindi hanno un costo. Quindi lui mette ovviamente il dito su un dato chiaramente ovvio, e chi ha più soldi dovrebbe avere, potrebbe pagare. Ti faccio un esempio, qualcuno mi accusa di aver ucciso una persona perché ci sono delle tracce che mi appartengono nei pressi del cadavere di questa persona, c'è una perizia e dice c'è il tuo DNA. Ecco, molte volte ci si sbaglia, in questo caso ci sono degli errori possibili. Come faccio a dimostrare, privato cittadino, che in realtà quel DNA ha dei margini di ambiguità? Devo prendermi un perito? Esatto, l'avvocato che ti difende cercherà, questo spesso succede, perché in istituto di medicina legale dove lavoriamo noi, lavoriamo sia per i PM, sia per i giudici, ma anche per gli avvocati e per le difese. Quindi direi che è chiaro che sta alla difesa trovare un perito buono che riesca, perché giustamente, come dici tu e come dice il signor Alfredo, mi pare che si chiami, è ovvio che se il perito del pubblico ministero, che ad esempio interpreta in un certo modo a favore, per esempio, della vittima un dato, chiaramente magari omettendo altre cose o non conoscendo altre cose, può essere sconfessato da un perito della difesa che chiaramente conosce più cose e più bravo di lui. Però mi rendo conto, Cristina, andrà pagato. Mi rendo conto, Cristina, e poi dopo lascio la linea all'informazione della borsa, ci sentiamo tra un istante, visto che sono già tantissime telefonate, che la vostra difficoltà sarà riuscire a far capire a un magistrato, che non sempre debba avere delle cognizioni scientifiche così approfondite, la differenza, i punti di contrasto tra le due perizie. Melog 2.0. Lo hanno trovato qui, vicino al cassonetto della spazzatura all'esterno di una fabbrica di pavimenti a Laurentino. Il cadavere è in avanzato stato di decomposizione, era avvolto in una coperta lugubre. Si tratta di un uomo seminudo, ai piedi legati, era incastrata tra le pietre infrangionde di un canale di Garlasco nel Pavese. Lo hanno trovato disteso sul pavimento della cucina di casa sua con il cranio fracassato e tre giubbotti che ne coprivano il cadavere. Un cadavere avvolto in un sacco, abbandonato ai margini di un bosco, ancora una volta sulle montagne del Lecchese. Probabilmente si tratta di una donna. 800240024, di questi cadaveri abbandonati nelle pieghe degli episodi di cronaca quotidiana, in realtà ci sono molte storie da raccontare, ci sono dei fili complicatissimi ma anche affascinanti da risalire per comprendere chi intanto ha contribuito a renderli cadaveri o anche a chi appartengano con le ossa, che non sempre è certo, non sempre è sicuro, non sempre si sa l'origine, appunto, l'identità di quei resti umani, o molte altre volte capire nella scena di un delitto quali sono le tracce che potrebbero portare all'identificazione di un eventuale colpevole. Ci sta dicendo questa mattina Cristina Cattano, che è antropologa forense e medico legale presso l'Istituto di Medicina Legale dell'Università Statale di Milano, che queste sono molte volte delle ipotesi con dei fondamenti scientifici, ma mai con una certezza. Ricordo che Cristina Cattane, oltre a essere medico legale, è una grande scrittrice di storie dei suoi morti, dai suoi scheletri, i suoi cadaveri, i personaggi che passano giorno e notte per le sue mani, a volte vivi con delle importanti, profonde lesioni, sia nell'anima che nel corpo, molte volte anche semplicemente, come ho visto qualche giorno fa, uno scheletro con delle ossa bruciacchiate intorno al quale con grande pazienza si comincia a lavorare. E Cristina Cattaneo, mi stanno telefonando molti ascoltatori un po' turbati per la materia che stiamo trattando, perché forse parlarne in termini razionali rispetto che come argomento di fiction o di informazioni fiction può essere forse inteso come una sorta di profanazione, ma io ho visto trattare con grande rispetto nel tuo istituto sia le ossa di morti ammazzati di qualche settimana fa assieme a ossa di personaggi del secondo secolo d.C. Una volta che siamo trasformati in ossa siamo tutti uguali, vero? Questo è vero. Scusami, però devo assolutamente finire di rispondere al signore di prima. Volevo soltanto aggiungere una piccola cosa, perché lui giustamente ha messo il dito su una cosa inquietante, sul disequilibrio a volte, e come mai si può essere che l'accusa dice una cosa, la difesa ne dice un'altra da un punto di vista tecnico. Ecco, la risposta a questo può essere diversa, e senza entrare nel merito di casi, cioè non mi riferisco ai casi oggetto di cronaca, eccetera, ma i problemi sono la qualità dei consulenti, dei periti. Non tutti sono levati allo stesso modo, c'è molta gente che è comunque meno preparata, i tribunali non hanno delle liste di chi è più preparato, di quali chi ha quali specialità, anche se dovrebbero esistere degli albi, ma non è vero, per cui un problema potrebbe essere la qualità del consulente tecnico. Ecco, cosa si richiede come base, cosa si richiede per fare questo tipo di perizia? Almeno per fare un'autopsia giudiziaria uno dovrebbe avere una specialità in medicina legale, almeno questo, e poi ognuno dei medici legali è specialista in settori particolari. Poi l'altra cosa è che può essere che siano state omesse delle cose sul sopralluogo, eccetera, per cui ci siano delle mancanze tecniche, ma più delle volte la mia impressione è che su queste grosse differenze tra accusa e difesa, in cui la paga forse chi ha meno soldi, come diceva giustamente lui, a volte, non sempre, ma a volte, per la differenza di preparazione tra i consulenti di una parte e dell'altra, c'è proprio il gioco sulla zona di grigio. Cioè, noi abbiamo detto che il dato scientifico non è preciso, e quando non si è onesti su questa cosa qui succede che in quella fascia di grigio si può giocare molto, allora vince chi ha più dialettica. Questa è una cosa secondo me molto importante. Quanto conta, diciamo, l'amplificazione e la costruzione mediatica intorno a un caso che di questi episodi meritori di un'analisi scientifica, di un dibattito tra esperti, in realtà diventano quasi la trama di un grande racconto televisivo? Temo che conti molto e temo che questa modalità di diffondere, di discutere su dettagli tecnici un po' raffazzonati da gente che non è esperta e sicuramente non dovrebbero essere i periti in causa, perché non dovrebbero diffondere queste informazioni, temo che influisca molto, molto sull'opinione comune, e tra l'opinione comune ovviamente ci sono anche chi fa le indagini e chi è giudice e magistrati. Ora io penso e spero che magistrati e giudici non si facciano influenzare, però devo dire che nell'inconscio, secondo me, è molto subdola questa cosa, e quindi secondo me è una cosa abbastanza pericolosa. Beh, del pigiama della Ranzoni, dello zoccolo, abbiamo visto foto ormai rappresentate in tutti i possibili teatri televisivi, in tutti i giornali, quindi mi sembra già di vederlo qui davanti, l'ho visto tante volte, ho visto le analisi in televisione di ogni macchia di sangue su quel pigiama. Esatto, dà quasi quindi l'impressione di conoscere come se fosse qualcosa di familiare, ma in realtà è di un'ambiguità estrema, mi sembra che tu mi faccia capire. Esattamente, è scorretto da un punto di vista deontologico, a mio avviso, ma è scorretto anche da un punto di vista proprio tecnico-scientifico. Cioè, le cose che si discutono lì non possono essere le mille sfaccettature di cui sono degne, di cui è degna una sentenza e comunque un giudizio che si fa sul dettaglio tecnico. Sentiamo Ettore. Ettore, buongiorno. Buongiorno. Grazie della disponibilità. In parte quello che pensavo di dire è stato trattato in questi ultimi minuti, però mi pare che questa guerra di perizie, che alla fine giungono a dire cose opposte a partire da dati scientifici, mettano in crisi non la verità e quindi in questo caso l'identificazione del colpevole, la colpa e di conseguenza, ma addirittura la realtà. Se scientificamente è possibile affermare una cosa e il suo contrario, veramente è il tessuto stesso del reale che va a farsi benedire, si perde quasi di vista il fatto in sé. Vorrei capire cosa ne pensa la dottoressa su questo. Diciamo ci sono altri fattori dove portare a un giudizio: l'intelligence, le indagini, gli interrogatori, le prove, e non soltanto il dato scientifico. Cristina Cattaneo. Sì, ha esattamente ragione, nel senso che non è soltanto il dato scientifico, appunto penso che alla sua domanda ci eravamo forse quasi arrivati, come giustamente ha già detto, anticipato lui, il problema è proprio questo, cioè mette in crisi una realtà, a parte che la realtà, quella che è assoluta, non è necessariamente la della realtà giuridica, ma questo lo sappiamo, però da un punto di vista di prova scientifica, se possiamo chiamarla tale, la prova scientifica non è la prova assoluta, è la grossa discrepanza e ciò che fa crollare tutto è la non consapevolezza di questa cosa, e quindi il dato scientifico viene gestito male, come se fosse un dato assoluto, senza il suo errore, senza le sue zone di grigio, e da qui nasce tutta la facile distruzione anche da parte di una difesa, se l'assunto è che questo è così e non può essere leggermente diversamente. Si potrebbero fare molti esempi, però il succo è questo, che il tutto parte da una cattiva rappresentazione del dato scientifico, e questo è negativissimo per noi, per la nostra disciplina, perché non viene illustrato nella maniera corretta. Diciamo, voi non avete strumenti quasi magici come nei film di Harry Potter, no, per ricostruire una persona. No, il dato scientifico è un tassello che gli investigatori devono utilizzare per ricostruire tutto il mosaico, è una tessera di un mosaico, e però deve essere, cioè non ha dei margini così netti che si infila perfettamente, o raramente li ha, va insomma interpretata e messa insieme agli altri tasselli, da solo non ha alcun senso, e quando secondo me i grossi problemi, le grosse distruzioni di realtà come diceva l'ascoltatore, sono riferiti a, o sono dovuti proprio a questa invece interpretazione, a prendere il dato scientifico come una realtà a sé stante, come la verità a sé stante. Sentiamo Gianluigi, buongiorno. Gianluigi. Sì, buongiorno Nicoletti. Senta, la mia è una domanda molto banale, perché riguarda un campo di competenza che probabilmente è estraneo alla sua ospite, ma di cui forse anche lei avrà sentito parlare gli addetti ai lavori. Mm-hmm. Banalmente, quando si sostiene che un imputato all'ora del delitto stava lavorando sul computer, come si fa a dimostrare che era effettivamente lui e non fosse semplicemente un computer lasciato acceso o una nonna, una parente, un amico che stesse lavorando sul suo computer? Tutto qui. Per quello che posso rispondere io, ciò che può essere accertato è soltanto che una macchina sia accesa e qualcuno la stesse usando. Penso, non so se ci sono anche dei sistemi di tracciatura della modalità di uso della macchina, non so se Cristina Cattaneo in questo può rispondere, non credo che sia proprio la sua materia, vediamo se può dare una mano. Informatica sono proprio zero, quindi non temevo invece dicesse se uno è da un'altra parte come si fa a dimostrare che l'ha ammazzato e ci entrasse nella delicata questione dell'epoca della morte, invece si parla di computer e non posso rispondere. Sì, perché non credo che ci sia una risposta a questo, il computer... può lasciare una traccia dell'uso che ne è stato fatto, ma non fa la fotografia di chi sta davanti. Cristina Cattano potrebbe lavorare sulle tracce lasciate sulla tastiera, sul rilevamento di piccoli residui organici di chi ha digitato su quella tastiera, ma non credo che possa andare oltre. Melog 2.0. Un uomo di mezza età, dall'aspetto curato. Quel cadavere, tuttavia, non ha ancora un nome. Era una persona tra i 50 e i 60 anni. Nelle tasche del cadavere era stata trovata un'agenda con numeri telefonici. Il suo stato dentario faceva presumere fosse stato trattato da un dentista della Svizzera o delle regioni circostanti, però anche sotto questo punto di vista non abbiamo potuto ottenere indicazioni. Le cause della morte sembrano naturali, ma perché nessuno si è fatto vivo per cercare quest'uomo? Non è il primo caso che nessuno riesca a collegare le informazioni con le persone scomparse. Mi scrive su Facebook Nicola, che è un informatico, mi dice: se uno vuole può lasciare delle istruzioni al proprio computer o delle macro operanti e il computer lavora come se ci fossimo noi a lavorare. Quindi è estremamente ambigua una macchina da questo punto di vista, a meno che non possa scattare delle foto della persona che sta davanti alla tastiera. Viene sollevato da questo spezzone di cronaca un altro dei campi di interesse della medicina legale e dell'antropologia forense, che è quella dell'identificazione di cadaveri che non hanno nome. Uno dei libri, infatti, di Cristina Cattano è proprio Morti senza nome. Se andate nel suo istituto trovate tanti scatoloni con scritto sconosciuto trovato in quel punto, sconosciuta trovata in quest'altro punto. Dentro ci sono dei mucchietti di ossa di persone che ancora devono avere un nome. Quante sono le persone mediamente che capitano per il tuo istituto, Cristina, da identificare, dei quali non si sa nulla? Ma una cinquantina ogni anno. Noi facciamo circa 800 autopsie all'anno, una cinquantina di queste hanno una richiesta di procedure identificative, e questa è stata un po' la missione dell'ABA, che è il nostro laboratorio di antropologia e odontologia forense. 15 anni fa ci siamo accorti che c'erano un po' troppi cadaveri che arrivavano senza identità e che non c'era una banca dati, e quindi da 15 anni stiamo lavorando su questo problema. Che non c'è una banca dati vuol dire che se uno scompare da Napoli e muore senza documenti a Milano, anche se viene regolarmente denunciato come scomparso, è possibile che non venga fatto il match tra il cadavere senza identità e la persona scomparsa, e quindi che questa persona venga sepolta per sempre sotto una lapide con suo scritto sconosciuto. Ecco, come lavorate voi? Come cominciate a ricostruire da delle ossa, capire a chi appartenessero, cosa ci sia dietro, la storia? Ci sono delle indagini molto, alcune molto artigianali, altre di nuovo molto sofisticate, per risalire al sesso, all'età, all'etnia, alla storia anche clinica un pochettino, che viene raccontata dalle ossa, dai denti, alle peculiarità di una persona, e poi alla fine, proprio quando siamo come ultima spiaggia, si cerca di ridare un volto a questa persona attraverso le metodiche di ricostruzione facciale, e si cerca di far girare questi identikit sui giornali, sulla televisione. Ma è vero, Cristina, che vi portano anche delle ossa di santi per ricreare, sì, un'iconografia coerente? Quindi tu, assieme a una persona, a un povero barbone morto, abbandonato magari nella stazione di Milano, hai le ossa di un famoso santo a cui devi ridare un volto. Cioè i calchi di San Nazario, di Milano, di altri santi del nord Italia. Sì, sì, sì, questa è un'attività che facciamo, è un ambito molto affascinante, cioè il confronto tra scienza e religione, cioè alcune chiese, alcune parrocchie che si chiedono appunto di identificare quei resti scheletrici, di capire se effettivamente sono di quel santo o no. E ridare quali sono anche i margini della ricostruzione di un volto? Anche lì in televisione si vede che mettono il cranio dentro il computer e immediatamente ti rifà la faccia tale quale, ma mi sembra che lo faccia un computer o che si faccia manualmente, l'errore è lo stesso. È una procedura estremamente grossolana, che è finalizzata soltanto a ricostruire una caricatura della persona, e si spera che questa assomigli. Insomma, nella nostra esperienza diciamo il 60% delle volte ci assomiglia abbastanza, il 40% di resti di no, eppure è servito lo stesso per portare l'identificazione, perché c'era quel qualcosa, e qui entriamo nell'ambito delle scienze cognitive, e quel qualcosa che ha fatto che ha innescato un processo di identificazione. Senti, a parte le trasmissioni televisive, cito Chi l'ha visto, che è quella più nota, esiste una banca dati di tutte le persone scomparse nel nostro paese? Attualmente no, ma il Ministero dell'Interno ci sta lavorando. È cambiato di recente il prefetto Monaco, ha lasciato appunto il lavoro al nuovo prefetto Penta e si sta costruendo una banca dati. Stiamo seguendo anche noi da un punto di vista tecnico le operazioni, un software per poter poi creare questa banca dati che confronti scomparsi e cadaveri senza identità. Ma non siamo, potremmo essere i primi in Europa a fare una cosa del genere, se riesce. Sentiamo Massimo. Massimo, buongiorno. Buongiorno Nicoletti. Ma io volevo così tracciare un secondo una mia esperienza. Io sono uscito dalla fiction e mi sono trovato, mio malgrado, proiettato nella realtà di un processo penale per omicidio con il giudice popolare in corte d'assise. Il famoso sorteggio che ti proietta fuori da quello che hai visto in televisione e a dover esprimere un tuo parere, un giudizio rispetto a un accaduto. Devo dire, sono stato fortunato perché in quel caso gli accadimenti erano piuttosto ben identificati, però ci siamo trovati davanti a disquisizioni tecniche giocate sul filo dei periti, cioè che discutevano sulla ricostruzione della dinamica, come definivano loro, omicidiaria, nascondendosi dietro termini del tipo compatibile con... questo tipo di ipotesi è, diciamo, in qualche modo si può attenere alla dinamica delle ferite piuttosto che altra tipologia d'arma. E voi non avevate strumenti tecnico-scientifici per capire chi potesse avere più ragione dei due periti? Questo ovviamente, ovviamente no, c'era quello dell'accusa che perorava le ragioni che avevano portato la persona sul tavolo dell'imputato, e c'erano ovviamente quelli della difesa che ne puntavano alla confutazione. Non parliamo poi delle perizie psichiatriche, tre psichiatri, uno perfettamente capace di intendere di volere, uno parzialmente obnubilato nei sensi e l'altro invece totalmente e come incapace. Vi siete regolati voi giudici? Ma noi rispetto a questo, per esempio, ci siamo trovati a prendere la decisione su perizie terze, nel senso che la persona era stata soggettata al di fuori del processo ad altre visite psichiatriche per episodi precedenti e successivi all'episodio dell'omicidio da periti che, diciamo, da psichiatri che non avevano ruolo in causa. Quindi avete azzerato tutti gli esperti che erano in causa praticamente. Abbiamo azzerato, diciamo che sono andate sul piatto della bilancia di una determinata posizione dei pareri tecnici espressi da professionisti che non erano però stati chiamati a sostenere una delle parti in causa. Quindi in Cristina Cattaneo, proprio in conclusione, che siamo in conclusione di trasmissione, cosa ne dici di quello che ha detto questo ascoltatore, che alla fine... non vorrei, già è difficile il mondo della medicina legale, il mondo della psichiatria forense lasciamola stare, che è un delirio difficilissimo. È chiaro che bisogna, la cosa migliore è che ci siano dei periti che sappiano trasmettere bene il dato tecnico anche a chi non è del settore. È chiaro che si sta parlando di nuovo di queste zone di cui dirige, infatti compatibile non vuol dire niente, è chiaro che manda in confusione, vuol dire non si può escludere, quindi o ci sono dei dati che ti possono indirizzare con una buona probabilità verso una cosa, oppure devi dire che non ci sono dati tecnici. Grazie Cristina Cattaneo, la Sile ci dice che abbiamo finito, grazie agli ascoltatori, a domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.